femmina che ha tutta la belluria, che serve ad ammazzarci di lussuria. La femmina che ispira, la frego l'animale, innanzitutto è sentimentale. I rendezvous, le lunghe passeggiate, le mille lettere, le serenate, ed ogni altra follia in nome della sua beltà la trasporta ma al 95%. Una donna arriva a stento, che lo dica o no apertamente, non è vero chi ha le chiappe sempre contente. Chi non è di questa opinione è soltanto un gran beccaccione, quando sotto le lenzuola la donna come un groppo in gola. Se non sente le campane, la fregola dov'è? Rimane. Solo se si innamora con dolcezza di un uomo tenero che la carezza, sempre ben disposta, allora sì che si concede. E se si annoia, neanche se ne avvede, quando diventa una Lucrezia Borgia, e non la sfamerebbe neanche un'orgia, allora sarà lei a far passare all'avventizio ore di supplizio. Al 95% una donna arriva allo stento, che lo dica apertamente, non è vero chi ha le chiappe sempre contente. Chi non è di questa opinione è soltanto un gran beccaccione, quando è sotto le lenzuola la donna come un groppo in gola. Se non sente le campane, la fregola dov'è? Rimane. Tutti gli ancora i sigli amore, amore, che griderà fingendo di gioire, solo pura carità, e tutti quanti i suoi sospiri non sono che finzioni o capogiri. Lo fa perché il suo partner non si offenda e seguiti a sentirsi una leggenda, perché il galletto tronfio che ogni notte la denuda non se ne deluda. Al 95% una donna arriva allo stento, che lo dica o no apertamente, non è vero chi ha le chiappe sempre contente. Chi non è di questa opinione è soltanto un gran beccaccione, quando sotto le lenzuola la donna come un groppo in gola. Se non sente le campane, la fregola dov'è? Rimane. Mi sembra di sentire già i bisbigli di chi in un giorno supera i conigli, a dirmi è colpa tua che sei un maldestro, sei un da poco, per questo non le sai accendere il fuoco. Sarà manche voi vi siete rotte di chi vi viene a dire quanto fotte, vittime del piacere assassinato dai playboy, cantate tra di voi. Al 95% una donna arriva allo stento, che lo dica o no apertamente, non è vero chi ha le chiappe sempre contente. Chi non è di questa opinione è soltanto un gran beccaccione, quando sotto le lenzuola la donna come un groppo in gola. Se non sente le campane, la fregola dov'è? Rimane.